Elia Media. Ha molto nostri vasi, molto media channel. Dal 15 di ottobre dalle 16 alle 20 in piazza Puntoni. www.aeliamedia.org